Viva Voce con Alessandro Milan. Sono le 9:04, gentili ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24, questo è il numero per intervenire in diretta. La mail vivavoce@radio24.it, sms al 349 238 6666. Qualche giorno fa un'inchiesta di Repubblica era titolata così: vietato adottare. Bastano d'altronde alcuni dati per certificare che sul fronte adozioni in Italia c'è qualche problema, se vogliamo usare un eufemismo. Burocrazia, attese infinite, rapporti con i paesi stranieri alternati, a corrente alternata, che hanno sono rapporti spesso problematici da questo punto di vista. Il risultato è, ripeto, con alcune cifre che ora vi do, abbastanza emblematico. Le domande di adozione continuano a crescere, sono cresciute e continueranno probabilmente a crescere negli anni. Erano 15.000 nel 2005, 16.000 l'anno successivo, si è arrivati a 20.000 nel 2007, probabilmente ancora di più nell'anno che si è appena concluso, ma in generale solo una coppia su 5, circa 5.000 coppie in Italia nel 2007 sono riuscite ad accogliere un figlio. E non certo perché in Italia e nel mondo manchino bambini e bambine adottabili. Solo in Italia, secondo l'Istituto degli Innocenti di Firenze, citato appunto in questa indagine di Repubblica, ci sarebbero 26.000 bambini che sono in situazione di adottabilità. Dunque la differenza tra la domanda da parte delle coppie italiane e le adozioni di fatto è molto ampia. Perché? Dove sta il problema? È davvero vietato adottare, come titolava polemicamente Repubblica? È così difficile adottare un figlio oggi in Italia? Ne vogliamo parlare oggi? Voglio salutare gli ospiti, a cominciare da Melita Cavallo, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Giudice minorile, è stata anche presidente della Commissione Adozioni Internazionali. Saluto Marco Griffini dell'AIBI, l'Associazione Amici dei Bambini, buongiorno Griffini. Buongiorno a ritrovati. Tutti quanti. Voglio anche salutare Caterina Ravera, buongiorno, che buongiorno. Ci racconterà la sua storia personale di donna che insieme al marito ha adottato due bambini dal Brasile. Le 9:08 minuti, dunque 800 24 00 24, per intervenire. È davvero così difficile in Italia adottare un figlio? Come detto, sono tantissime le richieste d'adozione a fronte invece di quelle che vanno poi effettivamente in porto come adozioni. Tante coppie che sono giudicate in grado di poter adottare, poche le adozioni che vengono poi compiute, questo annualmente. Caterina Ravera, come detto, possiamo dire è una donna che con suo marito ce l'ha fatta, insomma, ha adottato due bambini brasiliani. È stato difficile, lungo, tortuoso come iter? Ma io devo dire che probabilmente siamo stati più fortunati di altri, nel senso che noi la domanda l'abbiamo presentata, perché è così che parte l'iter, si presenta la domanda al Tribunale dei Minori, nel nostro caso in quello di Genova, e nell'agosto del 2004, e poi in realtà non abbiamo aspettato tantissimo, perché l'abbinamento con i bambini ci è stato fatto nel marzo del 2006, quando i documenti per il paese in questione, Brasile, li avevamo consegnati all'associazione a novembre, quindi non direi che la nostra sia stata un'attesa lunga. Beh, meno di due anni effettivamente è sotto la media. È stato un iter complicato dal punto di vista, ci spieghi un po' la procedura, appunto ci ha detto che si fa una domanda per il Tribunale dei Minori, c'è da dire che l'adozione sia in Italia che all'estero ha la stessa, diciamo, lo stesso canale, sempre dal Tribunale dei Minori. Quali sono le difficoltà che avete dovuto attraversare, se ne avete dovuto attraversare come colloqui? Ci spieghi un po'. Allora, dunque, normalmente sì, la domanda in genere le famiglie, se non hanno dei problemi a fare delle adozioni di tipo internazionale, perché magari non possono per motivi di lavoro lasciare il paese, si fa di solito in doppia versione, quindi sia quella per l'Italia sia per quella internazionale. Dopodiché si viene contattati dall'ASL, perché si devono fare una serie di colloqui con un'equipe che è composta da una psicologa e da un assistente sociale. La media è quella di 4-5 colloqui, dopodiché viene fatta una relazione, viene rimandata al Tribunale dei Minori e il Tribunale dei Minori ricontatta per un colloquio, e poi si attende, questi sono i tempi lunghi mediamente, per avere poi, se tutto quanto va in porto, il decreto di idoneità. Ecco, nel nostro caso quella è stata forse l'attesa più lunga, ecco, i colloqui sono durati 2 mesi mi sembra, perché sono scadenze di 2 settimane mediamente, però poi abbiamo aspettato almeno 6 mesi per avere poi questo decreto da parte del Tribunale. Ecco, lì dipende un po', credo, da città a città. Ecco, il Tribunale di Genova ricopre un territorio che va da Massa a Ventimiglia e quindi i casi, non soltanto quelli di adozione, i casi in generale sono tantissimi, quindi poi magari le domande di adozione sono quelle che vengono un po' messe in, non come priorità. Beh, questo sicuramente è uno dei problemi, cioè il Tribunale competente in questo caso a cui vi siete rivolti voi è competente da Massa a Ventimiglia, quindi si va dalla Toscana fino a tutta la Liguria praticamente. Senta, le chiedo, so che forse questo ha agevolato, forse no, ma ce lo dica lei, so che non solo lei con suo marito avete adottato 2 bambini brasiliani, ma credo che sua sorella abbia fatto lo stesso con altri 2 bambini che poi sono della stessa famiglia. Esattamente, sì, questo senz'altro nel nostro caso ci ha agevolato, perché mia sorella aveva presentato la domanda 6 mesi prima di noi, quindi era un po' più avanti, e quindi nel nostro caso, quando la nostra domanda è stata accettata dal Tribunale dello Stato del Brasile, dove appunto è stata accolta, nel nostro caso era il Mato Grosso do Sul, ci hanno chiamato immediatamente, quindi il tempo appunto di dichiararci idonei anche in quello stato, e ci hanno chiamato. Appunto c'erano questi 4 fratellini, quindi si era presentata questa occasione particolare, e il tribunale competente della città di Campo Grande, che è la capitale di questo stato, e l'equipe appunto degli assistenti sociali che trattavano il caso di questi 4 fratelli hanno ritenuto che la nostra famiglia potesse essere così l'occasione ideale, perché spesso e volentieri in Brasile ci sono comunque famiglie molto numerose, perché magari ci sono mamme che iniziano ad avere bimbi da 15 anni in poi, quindi appunto ci sono tanti fratelli disponibili, però spesso e volentieri vengono poi suddivisi in varie famiglie che si cerca di abbinarle con famiglie del territorio vicino, però non sempre succede, quindi nel nostro caso si trattava proprio di 4 fratelli che avrebbero comunque fatto parte della stessa famiglia. Di età? Posso chiederle di che età, quando li avete adottati? Allora, quando li abbiamo adottati, allora il piccolo che è andato, mia sorella, aveva quasi 2 anni, poi c'era la mia piccola che aveva 4 anni, poi 6 anni, e il più grande che è, diciamo, è stato abbinato a noi aveva 9 anni e mezzo, ne ha 12 adesso. Melita Cavallo, è stato un iter fortunato, come Caterina Ravera ci ha spiegato e ha ammesso, quello di meno di 2 anni per avere l'adozione di 2 bambini dal Brasile? Ma io non parlerei di fortuna, direi fortunato che nel tempo, sì, diciamo, delle condizioni che hanno favorito l'accelerazione. In effetti la descrizione che ha dato la signora dell'iter fa comprendere dove si può intoppare. Allora, non tutti i tribunali per i minorenni hanno la stessa media di disponibilità da parte delle coppie in relazione al personale che ci lavora, quindi ci possono essere dei ritardi perché ci sono tantissime richieste di idoneità, di disponibilità, e il personale è scarso. I servizi del territorio, ci possono essere territori attrezzati, attrezzatissimi, e territori sguarniti, per cui si rallenta tutto, e questo già sono, come posso dire, 2 step che possono essere rapidi o possono essere lenti o possono essere lentissimi. Poi la signora ha avuto sì questa chance che, essendoci un gruppo di fratelli e un gruppo familiare che accoglieva questi fratelli, è stato l'optimum per i bambini e l'optimum per le coppie. Del resto non è un caso singolo, ci sono alcuni casi, a me sono capitati alcuni casi in cui effettivamente 2 cugini, 2 sorelle hanno adottato un gruppo di bambini. Comunque non dobbiamo fare i conti, ecco, quando si dice vietato adottare, chiaro che è un titolo provocatorio, devono attrarre, però l'iter è lungo anche perché ci sono tantissime altre condizioni, quelli dei paesi che molto spesso rallentano più che chiudere, ma rallentano, quello dei rapporti con il paese, quello degli enti, i nostri enti che rappresentano l'Italia, che forse dovrebbero essere più fortemente ovviamente rappresentati e sponsorizzati da noi Italia, dal paese Italia, perché noi siamo in competizione con decine e decine di paesi occidentali. E che cosa accade? Noi italiani siamo il paese, in proporzione alla popolazione, siamo il paese che più chiede di adottare. Paesi come l'Inghilterra, come i paesi del nord Europa, hanno disponibilità molto limitate. Ecco, da noi si verifica questa sperequazione, questa sproporzione, perché c'è un grandissimo numero di coppie che chiede di poter adottare rispetto alla disponibilità dei bambini, che però, mentre in Italia è giusto, si va riducendo, purtroppo nel sud del mondo i bambini ci sono. Quindi bisogna, come dire, da parte nostra muoverci meglio, ecco. Beh, guardi, ma questo aspetto del rapporto con i paesi adesso lo tratteremo sicuramente, anche perché è un aspetto molto interessante. Io voglio fare una provocazione a partire da questo Marco Griffini, che, come detto, presiede l'AIBI, l'Associazione Amici dei Bambini, una delle associazioni che si occupa tra l'altro di adozioni a livello internazionale. Senta Griffini, poi veniamo a quello che lei ha detto sempre in qualche intervista corollario di quell'inchiesta di Repubblica, però le chiedo, quando Melita Cavallo ci dice i bambini nel sud del mondo ci sono adottabili e l'Italia in questo magari dovrebbe essere più supportata nelle associazioni per adottarli, però io dico, chi se ne frega se vengono adottati in Italia rispetto che in Brasile, rispetto che in Inghilterra, rispetto che in Germania, rispetto che in Francia. Voglio dire, se il bene è quello del bambino, purché ci sia una famiglia nel mondo che l'accolga, bene così o no? O è un ragionamento sbagliato? Assolutamente sì, il ragionamento è giusto. Il problema è che purtroppo questi milioni di bambini che sono ospiti degli istituti, delle comunità educative, non sono adottabili, o meglio, i bambini adottabili ci sono quei bambini grandi oppure i gruppi di fratelli, come diceva prima la signora Ravera. In effetti noi abbiamo liste di attesa di bambini grandi veramente, veramente finite. Abbiamo più bambini che coppie, però sono bambini grandi di 9, 10, 11 anni, ma la maggior parte dei bambini purtroppo non sono adottabili, e questo è il grande problema dell'adozione internazionale, dell'adozione in genere. Questo è il paradosso dell'adozione: da un lato migliaia di coppie in tutti i paesi europei e dall'altro milioni di bambini che vivono in questo limbo dell'abbandono, perché sono schiavi di questa cultura del mito della famiglia di origine. E questo vale anche per i bambini in Italia. I 26.000 bambini, le diceva, adottabili, almeno fossero adottabili, purtroppo sono 26.000 bambini che sono schiavi anche in Italia di questa, sì, io ho usato la parola malvagia che noi adulti abbiamo creato. Ho detto la parola adottabili erroneamente, cioè non lo sono per legge, ma forse potrebbero esserlo se ci fossero. Sono di fatto abbandonati, purtroppo una famiglia da qualche parte ce l'hanno, una famiglia, cioè una madre magari che è tossica, un padre alcolizzato, una mamma in carcere. E per questa cultura che è proprio inventata da noi adulti, facciamo pagare a questi bambini la colpa dei loro genitori. Per cui, poveretta, la mamma è tossica, ma gli vuoi togliere anche il bambino? Il padre in carcere, poveretto, gli vuoi togliere anche il bambino? Per cui questi bambini vanno avanti per anni e anni e anni in queste comunità educative in attesa che capiti qualcosa, non a loro, ma ai loro genitori, almeno quelli che li hanno messi al mondo. Ecco, questo è il vero problema della difficoltà per cui oggi è difficile adottare un bambino. È questa cultura. Questa cultura, questo mito della famiglia di origine, questo mito del sangue, questo mito della carne. La cultura è anche. Per sconfiggere, queste bambine saranno sempre in questo. E anche le norme di diritto sul legame del sangue, sulle quali magari Melita Cavallo tra poco ci dirà qualcosa. Però, Griffini, le voglio chiedere: lei non fa mistero anche nelle interviste a dire spesso il problema delle coppie anche italiane è che si fanno le richieste, cioè vogliamo un bambino piccolo, lo vogliamo sano, lo vogliamo bianco. E purtroppo, diciamo che in questi ultimi tempi, grazie anche al lavoro che è stato fatto, ringrazio anche la dottoressa Cavallo, quando è stata presidente abbiamo lavorato tantissimo su questo discorso dell'apertura e sono stati fatti dei notevoli passi in avanti. Però ci sono ancora effettivamente tanta strada da fare. Per esempio, noi da pochi anni abbiamo aperto questi paesi dell'Africa, il Kenya e il Congo, e lì ce ne sono milioni e milioni di bambini abbandonati. Lei pensi che nella Repubblica Democratica del Congo parliamo, e la cifra è giusta perché è un dato UNICEF, 4.500.000 bambini orfani, adottabili. In Kenya lì adottabili, cioè adottabili vuol dire adottabili. Assolutamente abbandonati. Richieste dall'Italia per quei bambini? attualmente abbiamo 3 coppie in lista d'attesa su decine e decine di bambini. Poi in Kenya, la situazione in Kenya è clamorosa, anche lì abbiamo centinaia di bambini adottabili, ma purtroppo c'è una legge disgraziata del paese del Kenya che prevede che la coppia straniera debba stare in Kenya ben 9 mesi, perché viene equiparata all'adozione nazionale, per cui le autorità keniate chiedono che la coppia resti là. Che stiano, e quindi questo non è possibile per tutti. Ecco, noi abbiamo solamente una coppia in lista d'attesa che sta preparando i documenti e partirà nel prossimo. Ecco, qui i tempi d'attesa sono velocissimi. Però c'è questo aspetto, lei si occupa di adozione internazionale, ma come lo definisce? Cioè cosa dice di una coppia che viene da lei a dire: guardi, però io lo vorrei piccolo, lo vorrei sano e lo vorrei bianco, sono richieste legittime? Oppure... Ma di legittimo c'è che una coppia che si apre all'adozione, cioè una coppia che si vede padre e madre di un figlio non suo, è una coppia che va comunque accolta e va accompagnata. Ma dopo va spiegata che cos'è l'adozione internazionale, che non è un chiedere il bambino, che non è giusto avere un desiderio, ma non è cercare un bambino, per cui quando la coppia si avvicina a questi enti, a queste associazioni, il nostro grosso lavoro e di accompagnarla per aprirla così alla disponibilità del bambino, chiunque esso sia, perché è giusto che una coppia si apra e accolga quel bambino che bussa alla porta in quel momento, che può essere un bambino bianco, un bambino scuro, un bambino grande, un bambino piccolo, è quel bambino che in quel momento ha bisogno di un padre e di una madre, e in quel momento chiede a loro due di essere il loro padre e la loro madre, per cui può essere chiunque. Ecco, questo è il grande problema, il grande sforzo che gli enti autorizzati, almeno quelli seri, quelli che hanno capito che la formazione e l'accompagnamento della coppia è indispensabile per fare un'adozione internazionale, è il grande lavoro che loro fanno. Ecco, per cui diciamo che culturalmente sta molto molto cambiando l'atteggiamento delle coppie italiane nei confronti dell'adozione internazionale. Allora, 800 24 00 24 per intervenire, tra poco anche i primi ascoltatori. Caterina Ravera e poi ancora Melita Cavallo. Lei, Caterina Ravera, avete posto delle condizioni, avete fatto qualche tipo di richiesta? Ci dica quello che pensa di dover dire, voglio dire. Magari no, ma se sì, si senta libera assolutamente di dire che tipo di condizione avete posto per l'adozione. Ma noi in realtà avevamo chiesto di avere bambini in età prescolare, questo anche perché forse io sono insegnante, quindi vedo anche tra i miei alunni quelli, diciamo, stranieri che fanno un po' fatica all'inizio, quindi era soltanto, ma non proprio per questo, per agevolare l'inserimento, diciamo, nell'incontro, nell'approccio con la scuola. In realtà poi, per quanto riguarda il nostro grande, questa condizione non è stata, diciamo, soddisfatta, perché lui era più grande, però a quel momento non ci siamo sentiti dire no, perché non rispetta le condizioni che avevamo posto noi. Ovviamente se noi non avessimo accettato, saltava anche l'abbinamento con mia sorella, quindi era... E poi noi, sapendo la storia, che poi in realtà dicono anche poco di questi bambini, avevamo qualche riga che descriveva il profilo del bambino, poi abbiamo parlato con l'avvocato che se ne occupava e lui proprio ci ha, diciamo, spianato la strada, dicendo che assolutamente i nostri dubbi potevano essere, ecco, insomma, vedendo il bambino e parlando con lui, capire che non avremmo avuto poi questa gran difficoltà. In realtà, in effetti, con la scuola un po' di problemi ci sono, ecco, ci sono perché magari gli insegnanti non sono pronti ad accogliere queste esperienze, ci sono perché nel nostro caso il nostro bambino non aveva proprio frequentato, quindi è stato inserito in una terza elementare pur avendo un'età da quinta, e quindi è ovvio che ha fatto un po' più fatica degli altri. Come questo era senza dubbio. Condizione in questo senso, ecco, non abbiamo posto altro, ecco, perché appunto il fatto è che siamo noi che accogliamo il bambino, e io vorrei appunto sottolineare questo, che tante persone quando ti incontrano poi ti dicono: ah, che bravi, avete fatto una scelta, ma in realtà se la vediamo dal nostro punto di vista dei genitori è anche un po' una scelta egoista, eravamo noi che volevamo essere genitori, quindi i bambini soddisfano anche questo nostro desiderio, quindi, o perlomeno è una cosa reciproca, ecco. Non siamo noi tanto bravi, ecco, noi eravamo semplicemente dei genitori che volevamo avere una famiglia, cosa che mi veniva perché io ne provengo da una famiglia numerosa, quindi non mi sarei vista senza figli, ecco. Senza dubbio è così. Il primo ascoltatore dalla provincia di Cremona, Celeste, buongiorno. Buongiorno. Dica. Vorrei raccontarvi un po' la mia esperienza di papà adottivo. Io sono alla seconda esperienza di adozione, che vivo sicuramente con meno patema rispetto alla prima, che ho vissuto con tutta una serie di problemi legati alla solitudine con cui mi sono trovato rispetto alla scelta dell'ente, alla non chiarezza di indicazione da parte del paese dell'ente. Sono contento che il dottor Griffini abbia raccontato che non sono le coppie a porre sempre chissà quanti veti per quanto riguarda l'adozione, ma spesso e volentieri, come si dice, ci sono delle condizioni dei paesi per cui le coppie si ritrovano invischiate in percorsi che vedono senza fine piuttosto che no. Oggi, avendo trovato un ente che secondo me lavora con competenza, con correttezza e con umanità, secondo me questo ci vuole, non è più così emotivamente brutto il percorso che sta vivendo, che stiamo vivendo verso l'incontro con il nostro secondo figlio o figlia. Posso chiedere, in Italia, all'estero? All'estero. All'estero. Il mio bimbo è di origine vietnamita, un bellissimo bimbo che è con noi da marzo dell'anno scorso. Grazie Celeste per questa sua testimonianza. Vorrei andare a Reggio Emilia da Carmine, buongiorno. Buongiorno, io sono Carmine Pascarella, sono psicologo e si occupa da tantissimo tempo di adozioni, quindi ho visto il cambiamento della fenomenologia dell'adozione in questi ultimi 20 anni, ne ho seguite più di 400. E vorrei sottolineare questo aspetto: spesso si parla dell'adozione come un iter burocratico. Se noi pensiamo che il termine domanda di adozione è stato sostituito col termine di dichiarazione di disponibilità all'adozione, già in questo aspetto leggiamo come la domanda presupponga il bisogno di avere un bambino, quindi un bambino che possa riparare la ferita narcisistica legata alla mancata procreazione biologica, mentre la dichiarazione di disponibilità presuppone in qualche modo non tanto la domanda per soddisfare un proprio bisogno, ma la domanda ad accogliere il bisogno di un altro bambino. Io sono disponibile ad accogliere un altro bambino e farlo entrare nella mia famiglia, che significa accoglierlo anche nel proprio mondo interno, quasi facendo diventare questo figlio il proprio figlio che si desiderava, legittimandolo internamente, quindi creando quel legame di doppia reciproca adozione, di doppia appartenenza, che fa sì che il rapporto si costituisca veramente su una base genitoriale che non è fantasticamente più debole, più fragile, sì, della genitorialità adottiva. Per fare questo è necessario un tempo che non è burocratico, ma è un tempo di elaborazione che faccia sì che la famiglia adottiva faccia andare incontro il proprio bambino ideale, costruito interiormente, verso il bambino reale che è il bambino adottivo. Del tempo ce ne vuole, i servizi debbono saper accompagnare la coppia e debbono saperla formare prima dei colloqui di valutazione psicosociale. Guardi, ma lei, Carmine, no, ma ci ha fatto tutto l'iter, insomma, l'importanza anche dell'iter e del tempo che serve perché questo iter poi abbia uno sblocco e uno sbocco positivo alla fine. C'è da capire se questo iter non è un po' burocratizzato, un po' troppo ingessato, e vorrei tornare da questo punto di vista a Melita Cavallo. Le chiedo, Presidente Cavallo, tra l'altro, quando prima Griffini faceva riferimento alla vicenda all'aspetto giuridico importante del legame di sangue, per cui ci sono 26.000 bambini, dice l'Istituto degli Innocenti di Firenze, che potrebbero essere adottabili, ma sono in quella situazione, dice Griffini, spesso di abbandono da parte delle famiglie, ma c'è questo legame di sangue che preserva la possibilità di non dichiararli adottabili. Il problema è che noi abbiamo una legge che ci dice di salvare questo legame laddove possibile, ma sì, il limite non viene stabilito dalle leggi, dipende dalla discrezionalità e dalla lettura delle carte, tra virgolette, dai servizi, da come i servizi la rappresentano, dagli ascolti. Quindi è come posso dire, bisogna crederci nell'adozione per individuare un limite che non sia troppo però davanti. Mi spieghi, è possibile che per esempio c'è una famiglia come dice Griffini dissestata, ma basta, che ne so, una visita una volta ogni tanto questo lo escludo. forse tanti anni fa era così, oggi non più. Non più. Noi, io penso che per evitare questo dobbiamo rafforzare i servizi e professionalizzarli e formare i giudici minorili a individuare quello che è il diritto di un bambino alla famiglia. Però io voglio aggiungere qualcosa su ciò che ha detto Griffini molto bene sull'estero. Questa massa di bambini effettivamente in stato di abbandono Non è per il legame di sangue che non viene dichiarato adottabile, perché ciò mi è stato denunciato fortemente anche dagli operatori del sud del mondo, del Sud America, Bolivia, Perù, nell'ambito di corsi di formazione fatti dall'Italia, i loro operatori. Cioè mi è stato detto, sì, noi giudici, per esempio mi ha detto una collega pubblicamente nel suo intervento, noi non trattiamo solo bambini, cioè i contesti familiari, le situazioni familiari, noi trattiamo tutta la materia civile, per cui gli avvocati vengono a bussare alla nostra porta, ma il bambino non bussa, non ha un suo rappresentante. Ecco, quindi è un problema anche di legislazione ed è un problema di servizi, per cui noi Italia dovremmo aiutare questi paesi con corsi di formazione, concorsi di aggiornamento sulle convenzioni che hanno firmato ma non hanno applicato. Quindi questa è una strategia da seguire da parte dell'Italia e di tutti i paesi che credono nell'adozione e vogliono permettere ai bambini sudamericani, africani o asiatici di avere una famiglia. Questo punto è interessante. I 800 24 00 24, a dimostrazione del fatto, sono tanti gli ascoltatori, nonostante sia, sapete, ancora un periodo di ferie, di feste, di festività, ma a dimostrazione che proprio questo è un problema che ho voluto toccare, concreto e vissuto da decine di migliaia di italiani. Se è vero che sono solo 20.000 ogni anno le richieste di adozione, vuol dire che il tema, la problematica è molto sentita. Adottare un figlio è davvero così difficile in Italia? Un'ascoltatrice da Latina, Simonetta, buongiorno. Buongiorno, volevo dire intanto che sono molto in linea con gli ultimi due interventi, sia della dottoressa Cavallo che dell'altro ascoltatore, non so chi fosse perché mi avete fatto spegnere la radio, quindi non ho potuto sentire molto bene l'intervento. Sì, e volevo dire lo psicologo da Reggio Emilia, credo, dica. Esatto, io vorrei mettere il dito sulla piaga che sono gli enti, perché purtroppo gli enti non preparano molto bene le coppie, non tutti, ma comunque la maggior parte non lavora molto bene intanto nella preparazione delle coppie, perché come giustamente ha detto il signore che è intervenuto da Reggio Emilia, si dovrebbe preparare la coppia elaborando soprattutto il lutto della serietà della coppia stessa e in funzione del bambino soprattutto, perché non dimentichiamoci che sì, c'è l'esigenza della coppia ad adottare ed avere un figlio, ma soprattutto c'è l'esigenza dall'altra parte di dare una famiglia a un bambino che molto spesso è stato abbandonato in istituti allucinanti. Io ho adottato in Messico, la mia esperienza è stata purtroppo bella da una parte e brutta dall'altra. E le posso assicurare che l'istituto dove stava mio figlio era una cosa allucinante, veramente allucinante sotto tutti i punti di vista. Erano privati di tutto, sia dell'affetto che del cibo, e purtroppo non è neanche colpa loro, perché sono dei paesi molto poveri dove hanno pochissimi strumenti e quindi non sono in grado di fronteggiare i problemi che hanno dell'alto tasso di abbandono dei bambini. Griffini, ha sentito la nostra ascoltatrice, grazie Simonetta. Diciamo il problema degli enti, sono anche un po' troppi gli enti. Sì, diciamo che la signora Simonetta ha perfettamente ragione, io non vorrei trovarmi nelle condizioni oggi di essere una coppia adottiva di fronte a questi 70, questa pletora di 70 enti. Chi vado a scegliere, no? Tra cui c'è il suo, fra cui c'è anche il mio, ci mancherebbe altro, per cui c'è stato qui un grande errore politico, nel senso che probabilmente qualcuno ha pensato nei tempi indietro più enti facciamo e più adozioni riusciamo a portare a casa. In realtà è stato un grande errore. C'è stata una speranza l'anno scorso quando sono stati così fatti questi nuovi regolamenti, questo nuovo regolamento che ha fissato i nuovi criteri degli enti, un lavoro che ha tenuto impegnato la commissione degli enti per circa un anno, ma poi insomma la montagna ha partorito il topolino, perché è rimasto tutto tale quale. Noi pensavamo così che gli accoglienti potessero essere ridotti a pochissimi, ben organizzati, tutti ben presenti con le loro strutture, le sedi, il personale, soprattutto nei paesi esteri, invece è venuto fuori purtroppo che nulla è cambiato, per cui continueremo con questi 70 enti, basta avere due sedi, una in Campania e una in Emilia-Romagna, per lavorare su tutto il territorio nazionale. Io mi chiedo come possono questi enti che non hanno sedi seguire le copie di tutte le regioni. Qui però è il problema della volontà politica, ecco, qui il discorso è molto chiaro. Se noi volessimo creare un sistema con degli enti forti, ben organizzati, ben rappresentativi, che non siano solamente agenzie, ma che siano organizzazioni che sono presenti nei paesi, che fanno cooperazione, che fanno formazione, lo possiamo fare. Quindi la responsabilità è dei politici e di chi governa la Commissione in questo momento. È un ascoltatore, Giancarlo da Milano, buongiorno. Buongiorno a voi. Di che? Niente, io volevo solo sottolineare la mia esperienza. Prima di adottare un bambino, questo è successo nel 2004, abbiamo ovviamente io e mia moglie fatto un giro presso le associazioni per cercare quella, diciamo così, più idonea a venire incontro ai nostri bisogni, che poi sono i bisogni dei bambini assolutamente. Abbiamo provato un'associazione, abbiamo fatto una riunione in questa associazione con diverse altre coppie, si parla di una decina di coppie. La signorina che rappresentava questa associazione in una premessa ha detto che attualmente bambini disponibili sotto i 2 anni ce n'erano pochissimi. A questo punto più della metà delle coppie si sono alzate e se ne sono andate via, e questo mi ha lasciato molto perplesso. Quello che ci diceva prima Griffini, allora è vero, cioè lei ha toccato con mano, insomma, sì, che sì, quello l'ho visto, coppie probabilmente giovani, io e mia moglie non siamo, ma che per carità non stiamo, io non, però, cioè, voglio dire, sospendo il giudizio, non ho un giudizio, anche non so che dire, cioè non è che dico abbiamo fatto bene, abbiamo fatto male, però il dato di fatto c'è. Certo, devo dire poi che l'associazione che poi abbiamo scelto ci ha dato veramente una grossa mano, ci ha aperto proprio il cuore, e lo ha fatto soprattutto con le coppie giovani, il cuore e la mente, nell'adozione di bambini anche più grandi. Noi avevamo già intenzione di adottare un bambino, anche avevamo la nostra disponibilità, era per un bambino già grande. Però ho visto che se l'associazione è in grado, è capace di aprire veramente il cuore a queste coppie e far capire che un bambino piccolo, un bambino grande, è un bambino soprattutto che ha bisogno di una famiglia. Io la ringrazio Giancarlo, intanto ne approfitto perché potrà stare con noi qualche minuto, la saluto l'onorevole Alessandra Mussolini che presiede la Commissione bicamerale per l'infanzia. Buongiorno onorevole Mussolini. Senta, ovviamente stiamo parlando di adozioni internazionali, di adozioni in Italia, della difficoltà di adottare un figlio anche per una legge farraginosa e in alcuni aspetti burocratica. Lei ha proposto, credo, ha fatto una proposta di legge per snellire questa procedura. Tra l'altro prevede, questa è la polemica che è andata un po' sui giornali e ce la spieghi un po', la possibilità anche di adottare per i single, cosa che non è prevista in questo momento. È previsto solamente l'affido per i l'affido, single, certo. E poi ci sono, lo sentivo prima da alcuni commenti, certamente quando ci sono dei bambini più grandicelli che sono difficili, bisogna ammettere, perché bisogna dirlo, che purtroppo non c'è richiesta, quindi rimangono in queste case famiglia sine die, senza sapere poi quale futuro possono avere. Allora, prima di tutto bisogna snellire i tempi, bisogna anche riorganizzare il sistema degli enti, perché ormai tutti vengono dirottati verso le adozioni internazionali e lì c'è veramente un caos, perché ci sono circa 74 enti, alcuni a dire la verità fanno solamente una o due adozioni l'anno. Quindi anche lì, se funzionano bene, se non funzionano, non devono essere utilizzati, perché è un'ulteriore confusione e allungamento di tempi per le coppie. Perché però l'adozione ai single? Lei sa che ha creato anche delle polemiche, c'è chi dice che è sbagliato, anche il ministro Meloni ha detto mai, non si può fare. Ma io non capisco per quale motivo, lei sa che a Roma, perché noi siamo andati proprio prima di Natale a Rebibbia, dove c'è il carcere femminile, dove ci sono dei bambini, certamente fino a 3 anni, bambini che, se vengono delle persone estranee, vengono dati anche per 1 o 2 giorni senza alcun tipo di controllo, perché c'è un'associazione che gestisce, Ecco, allora non capisco perché questo può essere fatto, perché può essere fatto per l'affido e non può essere dato un bambino ad una persona, sempre con i requisiti, sempre passando per il tribunale dei minori, quindi con certezze, vedere chi è, chi non è, ma almeno dare amore a questo bambino che è chiuso dentro queste case anni e anni, magari sono lì perché i genitori non hanno lo stato di adottabilità, perché il sedicente genitore gli manda una cartolina l'anno, ma questo non significa avere un rapporto con... Però onorevole, è lo stesso motivo per cui non si fanno li chiami come vuole, i PACS, le questioni dei diritti civili. Ma questa è totalmente un'altra cosa. Qui si parla di dare amore a un bambino, di toglierlo da queste case, e questi bambini chiamano mamma un'istitutrice, non hanno affetto, vivono in condizioni disagiate, e io credo che il compito di una società civile è togliere i bambini da queste case e dare loro affetto e amore. Poi certamente noi sappiamo che il genitore, quindi padre e madre, sono la priorità per un figlio, ma quando ci sono dei bambini grandicelli anche una persona singola può dare affetto, può dare amore. Io ho vissuto solamente con mia madre perché i miei erano divorziati e non mi sembra di aver avuto dei disagi incredibili. Il ministro Meloni sempre l'ha provocata un po' dicendo no alle adozioni ai gay, cioè le chiedo, se fosse un'adozione ai single bisogna anche capire l'orientamento sessuale, secondo lei? Ma io credo che la Meloni è entrata nella famosa trappola per non cambiare la legge sulle adozioni. È una legge datata, è una legge che prevede 3 anni di matrimonio, è un tempo assurdo. Io l'ho ridotta a 1 anno di matrimonio, con possibilità di adozione anche se c'è stata una convivenza di 1 anno prima, perché lei sa che per la convenzione dell'AIA non si può inserire la coppia di fatto. Sì, sì. La coppia lei convivenza. Invece vorrebbe inserire anche la coppia di fatto. No, la coppia di fatto non la possiamo inserire perché c'è la convenzione dell'AIA, però dato che ci sono delle sentenze della Cassazione, se c'è stato anche 1 anno di convivenza prima del matrimonio, allora già questo vale, però il matrimonio deve esserci sempre. Almeno da 1 anno, lei dice. Però basta 1 anno. Almeno da 1 anno, non da 3 anni. Poi pensi che per adottare anche a livello internazionale occorre il consenso dei genitori della coppia. Cioè, lei immagina che quando uno mette al mondo un figlio non è che deve avere il consenso del padre o della madre, no? Lo mette al mondo. E invece nelle adozioni deve avere il consenso dei nonni, diciamo così. Questo è assurdo, quindi è un'altra cosa da eliminare, perché spesso blocca, spesso ci sono delle situazioni familiari così non di serenità. E quindi questo può essere un altro elemento di blocco. Però nel salutarla, onorevole, mi risponda proprio sì o no sulla questione dell'orientamento sessuale. Cioè... No, l'orientamento sessuale noi non possiamo, assolutamente io non sono favorevole, però posso dire che... Cioè non è favorevole all'adozione ai gay? No, non sono favorevole all'adozione per i gay, ma sono favorevole alla persona singola che vuole avere un figlio. Non è che tu, però quando cominciano a dire i gay vuol dire che non vogliono cambiare la legge, perché in Italia è così. Si mette lo spauracchio dell'omosessualità, a parte, voglio dire, ci sono tante coppie sposate, uno è eterosessuale e l'altro è omosessuale, voglio dire, cominciamo a dirci anche le cose molto chiaramente. Ci sono persone che si sono sposate, hanno avuto figli e poi sono omosessuali, cioè, voglio dire, quindi a un bambino tu devi dare affetto, devi dare amore e bisogna toglierli da queste case, da questi istituti. Melita Cavallo, lei da giudice minorile che ne pensa dell'idea, tra le altre, di allargare l'adozione anche ai single in modo da insomma da far fronte alle tante richieste? Guardi, io ho dato tanti bambini a persone singole, adesso le dico in quali casi. In effetti noi abbiamo, l'ha detto lei, lo dice la stampa, abbiamo tantissime coppie, no? Che chiedono di poter adottare e non adottano. Sì. Quindi aggiungere a queste migliaia di coppie, a queste 10, 12 mila, 15 mila coppie, altre 4 mila single, voglio dire, non giova al bambino. Aumenta solo la domanda. Aumenta solo l'attesa e aumenta la domanda. Anche perché rispetto tra una coppia e una single, io ho un single, io credo che bisogna preferire per il bambino la coppia in cui ci sono le due persone, le due funzioni educative. Secondo, voglio dire che la nostra legislazione permette, ha sempre permesso che la persona singola possa adottare, però in quale caso? Nel caso in cui precedentemente alla dichiarazione di adottabilità abbia un rapporto con quel bambino. Se quel bambino che dichiariamo adottabile ha un rapporto buono con la sua maestra che è una single, col suo medico che è un single, con una sua vicina di casa che lo ha tenuto da bambini mentre la mamma si disintossicava e poi è morta, allora io la do alla single. Ma se devo scegliere tra una single che non ha un rapporto e una coppia, io credo che debba, quindi non ci risolve il problema di dare più bambini in adozione. Poi sul percorso, cioè ridurre il tempo di convivenza, no, perché oggi se ho convissuto 3 anni e mi sposo oggi, domani posso fare la domanda. Quindi cosa vuole la legge oggi? Vuole un minimo di verifica del rapporto, dell'unione, di stabilità. Ora, 1 anno personalmente io credo che sia troppo poco, e le dico perché. Perché la maggior parte delle coppie chiede un bambino perché non ha un bambino proprio, la maggior parte, la gran parte, il 90%. E allora 1 anno, mettiamoci un altro anno poi di attesa, di percorso maturativo, quello che ha spiegato benissimo lo psicologo, in 2 anni, ma una coppia può rimanere in attesa di un bambino proprio, naturalmente dopo 2 anni e mezzo. Che cosa accade? Perché noi giudici minorili che lavoriamo, io lavorerò da 30 anni su tema, sì. Che cosa vedo? Che quando poi una coppia rimane incinta, specie se non è una coppia, come dire, sostenuta a livello di famiglia, con doppio lavoro, dice adesso io non so, sto per partorire, forse è meglio che aspetto. Allora si cominciano a creare le sospensioni perché la coppia aspetta un bambino proprio, quindi sarebbe purtroppo insomma un po', come dire, complessa la situazione. Certo. E sui nomi voglio dire questo: la legge italiana non è che ha introduce le norme introdotto così perché voleva. E che cosa avviene? Che nei paesi da cui noi prendiamo bambini, dove la famiglia patriarcale ha ancora un senso, i nonni hanno grossa importanza, questi paesi me lo chiedono, io molto spesso non l'ho richiesta, no, perché effettivamente dico ma dai così, ma me lo chiedono dall'estero perché vogliono sapere, in caso di difficoltà per esempio dell'adozione, questa adozione è sostenuta anche dai nonni? I nonni volevano l'adozione, o se appena una piccola cosa non va dicono alla figlia o al figlio ma chi te l'ha fatto fare, io te l'ho detto che sarebbe stato un percorso difficile. Non so se avendo l'idea. Quindi nasce da una esigenza, e questo lo dico perché io come giudice molto spesso ho evitato di chiedere, prima di tutto noi non è che li sentiamo, ci portano una dichiarazione, molto spesso sono andata all'idoneità senza dichiarazione, ma dal paese straniero attraverso l'ente ho avuto la richiesta di una certificazione mia del tribunale in cui si dice che tutta la famiglia, sia paterna che materna, era consenziente ad avere un bambino, sì, adottivo nella famiglia. Mi spiego? Quindi diciamo, nel modificare una legge, perché ogni legge può essere modificata in meglio, ecco, io non dico di no, però bisogna tenere presente tutte quelle che sono le implicazioni poi e le ricadute sull'estero, perché noi il bambino adottato straniero lo prendiamo dalle autorità straniere. Non è che lo prende l'autorità. No, italiana. No, no, ma su questo non c'è dubbio. Vorrei andare. Si parla molto di adozione all'estero. L'adozione in Italia è sempre messa in secondo piano. Bisognerebbe capire anche perché anche questo. Roberto da Modena, buongiorno. Buongiorno. Dica. Buongiorno, tanti auguri. Senta, io vorrei portare un'esperienza positiva. Noi abbiamo iniziato un iter di adozione che si è concluso nel 2007, noi ad agosto abbiamo portato a casa un bambino dalla Federazione Russa. Noi siamo felicissimi, siamo molto contenti, è andato tutto, è stato un iter, come sentivo anche dagli interventi. Noi, la nostra esperienza è un po' diversa, perché anche l'istituto dove era, sentivo la signora in Messico, che era una cosa diversa, il nostro era molto dignitoso come istituto, povero ma tanta dignità abbiamo trovato. Il bambino non era in paradiso, però come devo dire, mi aspettavo, ci avevano preparato al peggio sia l'associazione che l'USL dove abbiamo fatto prima le domande. Invece, insomma, anche da questo punto di vista avete avuto un'esperienza, un impatto positivo, insomma, nella povertà, ma nella grande dignità dell'istituto dove poi avete potuto compiere il vostro percorso di adozione. E grazie Roberto. Io vorrei tornare un attimo da Marco Griffini. Griffini, ora si apre, a meno ho letto sui giornali, anche la Cina. Nel senso che credo a giorni, insomma, tra gennaio e febbraio, verranno in Italia le prime bambine adottate dalla Cina, è così? Tra l'altro so che l'AIBI è impegnata da questo punto di vista. Sì, sì, questa è la bella novità della chiusura del 2008, quindi questo regalo proprio della Repubblica Popolare Cinese, l'aveva promesso, l'ha promesso al ministro Giovanardi, ha mantenuto, quindi queste prime 20 bambine che saranno le prime cittadine cinesi in Italia, e pensiamo così che potrà essere realizzata questa cosa. Tutte bambine. Sono tutte bambine, però devo dire che io ho 30 anni che opero nel settore dell'azione internazionale, però le devo dire che l'adozione con la Cina sta rivelando un aspetto veramente felice, cioè loro credono nell'adozione internazionale, cioè un governo finalmente, dopo tante delusioni, che crede che l'adozione internazionale effettivamente è un mezzo per dare una famiglia a un bambino. E le devo dire che i dossier che hanno preparato per queste bambine sono veramente una cosa esemplare, nel senso che non solo hanno tutte le notizie anagrafiche, storiche, sanitarie del bambino, e noi sappiamo che questo è uno dei grossi problemi dell'azione internazionale, quando purtroppo abbiamo pochissime notizie di questi bambini, molte volte solo un nome e un'età così ipotetica, mentre i cinesi invece hanno presentato proprio dei dossier perfetti, addirittura in questo dossier c'è gli alimenti, i cibi preferiti dal bambino, e tutto per preparare bene la coppia a questo incontro che loro giudicano molto importante. E che avverrà in questi mesi, insomma, arriveranno, sì, no, proprio. Noi pensiamo che a febbraio si potranno realizzare questi incontri. Prime 20... E quindi ecco, proprio è l'insegna della massima trasparenza, del massimo rigore, e quindi è veramente una notizia molto positiva. Che ha sorpreso positivamente. Allora andiamo, ce la facciamo un'altra ascoltatrice, sì, Anna dalla provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Sono Anna e volevo dire che sono una madre adottiva, quando abbiamo fatto domanda di adozione avevamo già 3 figli e in accordo con mio marito i bambini e i nonni abbiamo fatto domanda al Tribunale dei Minori di Torino, aspettandoci anche già allora, 37 anni fa, sapevamo che era difficile avere dei bimbi piccoli in adozione, però ho voluto prepararmi prima dell'adozione iscrivendomi all'associazione storica ANFA, Associazione Famiglie Adottive Affidatarie, per capire bene a che cosa andavo incontro. Questo mi sembra importante per una famiglia che voglia adottare, la preparazione. Siamo stati chiamati al Tribunale dei Minori, abbiamo avuto dei colloqui, la visita di un assistente sociale del posto qui per vedere l'ambiente in cui sarebbe stato inserito questo minore, e aspettandoci un bambino già grandicello, perché abbiamo fatto una domanda senza nessuna specifica richiesta né di sesso né di età, siamo stati chiamati e dopo 8 mesi, un tempo brevissimo, ci hanno proposto un bimbo di 8 mesi. Che ci ha scombussolato un po', perché bisognava ritornare a pannolini, pappa, eccetera, però consultandoci marito e moglie e bambini abbiamo accolto molto, con molto piacere questo minore. Beh, signora Anna, ma complimenti davvero, anche perché voi non rientrate in quel 90% delle coppie che diceva Melita Cavallo che chiedono un figlio perché non hanno un figlio. È il desiderio di dare una famiglia a un bambino. Ne avevate questo già tre. Il principio ne avevate fondamentale già tre. Di chi vuole adottare. Questo è importante, che abbiano o no figli, bisogna proprio dare una famiglia a un bambino, questo è proprio importante. Grazie. Poi grazie. Volevo anche sottolineare un aspetto: quali interessi ci possono essere da parte degli ex istituti e comunità che oggi hanno ancora minori nel non dichiarare l'adottabilità di bambini? Bisognerebbe andare a valutare molto attentamente se hanno degli interessi specifici nel trattenere i minori per motivi di interesse o se è proprio un problema. Lei ci vede questo? Cioè addirittura una speculazione economica? Ma questo sospetto c'è sempre stato. Melita Cavallo, vogliamo chiudere su questo? Cioè c'è addirittura, Anna dice, perché l'interesse a tenere i minori in condizioni forse di non adottabilità negli istituti? Ma, no, io non posso escludere che ci possa essere una comunità che ha interesse per sopravvivere con i suoi operatori a mantenere i bambini, non posso escluderlo, però devo dire che la procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni interverrebbe, spero. No, ma fa delle, naturalmente controlla e quindi può verificare. E poi sinceramente voglio dire questo, molti di questi bambini, la maggior parte, perché riconosco che ci potrebbe essere una piccola parte di questi bambini che possa essere definita come adottabile, ma la maggior parte ha genitori con problemi, basterebbe dare loro lavoro e casa e già molti uscirebbero. Non è giusto che un genitore che non ha lavoro, non ha casa, ha una situazione anche di malattia, non so, della moglie, debba vedere il consiglio. E mi pare che questo non bisogna fare una differenza. Va bene, no, no, ma accolgo in pieno questa sua ultima obiezione. Mi devo fermare, però il tempo è davvero finito. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti: Alessandro Marco Tulli, Elisabetta Fusconi in redazione e Giorgio Mattei in regia. Domattina, Epifania, siamo regolarmente in diretta. A domani.